Queste domeniche dell'anno ci stiamo leggendo il Vangelo di San Luca. Vi ricordate che domenica scorsa abbiamo letto la versione di San Luca delle Beatitudini, e con alcune differenze con il Vangelo di San Matteo. Anche le Beatitudini per Luca sono quattro. E poi sono applicati ai discepoli, no? Beati voi, no? Dice Gesù. E poi sono anche contrapposti a quei quattro guai, no? Guai a voi se... E poi, ecco, e oggi invece leggiamo un proseguimento di questo discorso, che è il discorso che appunto in San Matteo viene chiamato il discorso della montagna. In effetti penso che se noi chiediamo l'aiuto allo Spirito Santo per lasciarci formare, lasciarci convertire, no, da questa parola del Signore, che anche leggeremo nella Messa, e in effetti leggiamo alcune parole che sono considerate proprio come la differenza cristiana, no? Tra i discepoli di Gesù e gli altri, no? Nel Vangelo di Matteo la differenza è tra i discepoli di Gesù e quello che gli è stato detto come membri del popolo eletto, no? Gli è stato detto, ma io vi dico. E San Luca, sappiamo bene che il Vangelo invece si riferisce ai pagani, ai cristiani che stanno, ecco, che non hanno conosciuto, che non hanno relazioni con il giudaismo, e in effetti la differenza del cristiano è rispetto a quello che è la vita dei pagani, no? La vita, ecco, umana, così come la conosciamo nella normalità delle nostre reazioni, no? E in effetti questo è il brano famoso nel quale Gesù dice: amate i vostri nemici. A voi che ascoltate, io dico, disse ai suoi discepoli, disse: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Ecco, e poi arriva quella che viene chiamata la regola d'oro, no? E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Nella traduzione che usiamo dal 2008, vedete che c'è stata questa variazione. Prima si diceva: che merito avete, no? Ma sembra che sia più corretto, più letterale, anche più vicino a quello che può aver detto Gesù, perché appunto il concetto di merito è un concetto, insomma, più elaborato e successivo, così dicono gli esperti, o così ho letto in alcuni commenti, e quindi noi prendiamo queste parole come, ecco, come interessanti, che ci aiutano a capire quello che Gesù diceva. Che in generale ho visto che alcuni considerano che San Luca rispetto a San Matteo pare che in alcuni passi, in cui per esempio questi, sia più vicino all'originale, no? Alle parole di Gesù. Comunque, in ogni caso, ecco, soprattutto poi quando arriviamo a un punto importante, sono tutti importanti, se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Ecco, qui vedete che il contesto nel quale tu Gesù ci stai dicendo queste cose, perché stai parlando proprio ai discepoli, quindi noi cerchiamo di, ecco, di immaginarci lì sulla montagna, no? O in qualunque altro luogo, insieme ai tuoi discepoli ad ascoltare questa parola nuova, no? È una parola nuova. Sono parole nuove sia rispetto all'Antico Testamento, dove c'era, ci ricordiamo, no? La legge del taglione, no? Occhio per occhio, no? Quindi, insomma, anticamente poi c'è stata tutta un'evoluzione anche all'interno della rivelazione, e per quanto appunto condiscendente così alla rudezza, no? Degli uomini a cui si rivolgeva il Signore. Però il contesto in cui Gesù sta parlando è un contesto di vita quotidiana, come comprendete, no? Fare del bene a quelli che vi odiano e benedire chi ti maledisce, poi prestare, no? Chi ti prende qualcosa, no? Chi ti dà chi ti colpisce. Quindi anche il nemico, peraltro. Ricordo che insomma, in un libro di teologia morale di Gunther, lui diceva che anche la parola greca si riferisce appunto al nemico quotidiano, no? Più che al nemico, quello che arriva con l'esercito dal paese straniero, no? Perché quello in fondo dice amati i nemici, beh, insomma. Sono 70 anni che, no, grazie a Dio, da queste parti non abbiamo invasioni, però appunto non si tratta tanto di quello, anche se ovviamente in quei casi i cristiani, beh, si legge, no, di episodi di santità, no, straordinari. Pensate a Massimiano Kolbe, a questi personaggi Edith Stein, Bonhoeffer, questa gente che appunto nei campi di concentramento, che sicuramente lì ci sono stati episodi di grandissima santità che sono di questo genere, che sono ascrivibili solo ad una grazia specialissima di Dio, no? Che però appunto se tu Signore ci chiedi questo, ce ne doni la grazia, no? Per farlo, anche se noi ci sentiamo in grande difficoltà a vivere così come tu ci chiedi, no? Quindi però il contesto è tendenzialmente il contesto quotidiano, fate del bene senza sperarne nulla. La vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Effettivamente è così, no? Lo notiamo che è così. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati. Questo, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, è una frase di grandissima bellezza e importanza, no? Pensate che, ecco, appunto, proprio in questo caso, ho letto perché io non. Che si consider alcuni considerano questa frase come più vicina al pensiero di Gesù rispetto a quella che poi Matteo dice siate perfetti, no? Come il Padre vostro è perfetto, cioè quella è come una, ecco, un'espressione della stessa frase, ma considero anche che l'originaria possa essere questa, no? Di San Luca, che San Luca senz'altro in tutta il suo Vangelo e anche negli Atti degli Apostoli è chiamato l'Evangelista della Misericordia del Signore, no? Infatti ha tutte quelle, non solo parabole della misericordia, no? Pensate alla parabola del Padre misericordioso e dei due figli, no? E quella della dracma perduta, la pecorella smarrita, ma poi anche degli episodi che racconta solo lui, no? O parabole anche buon samaritano, oppure l'episodio di Zaccheo, l'episodio della donna peccatrice, e questa, quindi quella, il dialogo col buon ladrone sulla croce di Gesù, sono racconti esclusivi di San Luca che evidentemente non solo dice con i discorsi, ma anche con le parole, con i fatti. Anche il racconto del martirio di Stefano, no? Negli Atti degli Apostoli è considerato un libro di San Luca anche quello. E lui che dice, cioè che vive l'insegnamento di Gesù di perdonare i propri addirittura uccisori, no? Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, sarete perdonati. Ovviamente dobbiamo anche entrare dentro cioè appunto al linguaggio semitico di Gesù, quindi anche questo stile proprio, ecco, di contrapposizione e di assenza di sfumature, no? Che è tipico di quelle lingue, di quella cultura, di quelle lingue. Ovviamente non ci chiede Gesù di astenerci dal valutare ciò che è bene e ciò che è male, no? Però, e questo va fatto, è ovvio che va fatto anche appunto per orientarci nella vita, però il giudicare il cuore del peccatore, questo dobbiamo lasciarlo a Dio, quindi volergli bene anche nonostante il male che fa, cosa che può non essere facile nella vita pratica, no? Però è molto importante, no? È molto importante. Quindi ci vogliamo lasciare forgiare, no? Da queste parole, cambiare il cuore. In fondo le abbiamo lette molte volte, nella messa le abbiamo lette probabilmente, ecco, probabilmente 3 anni fa in una domenica come questa, e quindi sono passati per noi 3 anni di vita e anche di tante esperienze, di tanti lavori, di tante battaglie, no? Fatte e realtà costruite e gioie, speranze, passioni, delusioni anche, no? E successi, insuccessi, insomma, dal punto di vista umano. E allora queste parole di Gesù ci trovano oggi diversi da come le abbiamo lette o ascoltate l'ultima volta, e ci trovano forse più maturi, forse più disposti a prenderle sul serio. Datevi sarà dato una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. In fondo la ricompensa che il Signore ci promette, proprio il dono di sé, il dono suo, no? Cioè questa misura che ci viene data nel grembo è una misura di grazia, di doni, di gioia, che nel paradosso cristiano è sempre mescolata, no? con il dolore, no? Vi ricordate, ieri leggevamo nella messa il Vangelo della trasfigurazione, no? del Signore, e in effetti mi colpiva vedere come in una pagina di lezionario c'era una sintesi di vita cristiana appunto attraverso questo paradosso, no? Questi della messa di ieri, che nell'omelia della messa di ieri a Verona, ecco, notavo come all'inizio c'è questo, quella trasfigurazione di Gesù che affascina Pietro e gli altri, che li sconvolge, perché è una visione di cielo, è una visione, Gesù fa vedere la sua divinità che traspare attraverso l'umanità, ma anche fa vedere qualcosa di quello che potrà essere il nostro corpo glorioso, no? Il suo corpo glorioso e quindi anche il nostro. E allora la gioia è tanta che dice: facciamo tre tende qua, no? Così, una per te, una per Mosè, una per Elia, e, cioè, rimanete qua, no? Che è così bello, no? E questo desiderio, cioè, quando penso che capiti, no? Che, no, come raccontano, chi ha queste visioni del cielo, evidentemente gli passa il tempo senza che si noti, come succede anche nell'esperienza umana, no? Quando ci sono momenti belli, momenti di grande amore, il tempo passa senza noia, no? Senza fatica, senza, anzi vorremmo che durasse di più, e poi purtroppo bisogna, la vita va avanti, bisogna andare, bisogna fare altro, bisogna, però è così nel paradiso, e ci immaginiamo i santi del paradiso che non si annoiano, no? E che è tutto pieno d'amore, è tutto nuovo, ma anche c'è tanto da fare, no? Ti farò padrone di 10 città, no? Pensate un po' quanto, no? Alcuni che sperano con il riposino in pace, oh, finalmente potrò riposare, invece in cielo, ai beati del cielo, il Signore dà molto lavoro, no? Molto. Però è un lavoro che non stanca, è un lavoro che appunto, che immerso nell'amore di Dio, insomma, in cui, ecco, quindi noi possiamo dare molto lavoro ai beati del cielo anche affidandogli molte intenzioni, no? E poi però in quel Vangelo della trasfigurazione, poi subito dopo, cioè, anzi in realtà già lì su quel monte Tabor Gesù parlava, secondo alcune delle versioni dei Vangeli, parlava proprio della croce di Gerusalemme, no? Quello che l'aspettava a Gerusalemme con Mosè e con Elia, e infatti scendendo glielo dice ai discepoli, dice: e poi però non ditelo, no? Finché non sarò risorto dai morti. Ma chissà cosa sta dicendo. Quindi c'è sia il Tabor che il Calvario, no? Sia il Calvario che la risurrezione, insomma, questo paradosso che sempre ci accompagna, no? Però la misura che il Signore vuole riversarci nel grembo è appunto colma, traboccante, se è legata alla nostra generosità: date e vi sarà dato. Quindi noi possiamo, cioè questo potrebbe essere un brano del Vangelo da portare spesso alla nostra orazione, per cui da avere come faro del nostro cammino, no? E ovviamente io penso che tutti noi sperimentiamo anche nelle piccole cose di ogni giorno, che se qualcuno ci fa uno sgarbo, o se qualcuno addirittura appunto ha un parere diverso, per cui non ha quella sintonia che noi desidereremmo, anche sul sul nostro percorso, sui nostri progetti. E noi, ecco, possiamo essere tentati di vederlo come un nemico, no? Pur essendo persone magari, ecco, molto vicine della nostra famiglia, no? Magari si pone come nemico nel senso, sì, semplicemente appunto perché non mi comprende, perché nei suoi difetti, nelle sue difficoltà, non mi segue, no? Nei progetti che gli propongo, eccetera, per dirne solo una. E allora comprendiamo in queste cose più che in altre che senza di me non potete fare nulla, cioè senza la tua grazia, Signore, non siamo capaci. Per cui te la chiediamo, no? Ti chiediamo la grazia immensa di cambiare il nostro cuore, di essere in grado di amare. Quando, se noi avessimo appunto l'illuminazione dello Spirito Santo, così quel sorriso di Maria, probabilmente ce l'abbiamo, dobbiamo saperlo ascoltare e guardare, no? Quando accade qualche punto, qualche piccolo screzio, o piccolo o grande, no? E di dire: io sono chiamato in questo momento ad amare questo mio nemico, tra virgolette, no? È vero che San Cosimo Maria diceva: io non ho nemici, ho amici che posso tenere sulla destra, amici sulla sinistra, a seconda di, cioè, amici, persone che mi hanno fatto del bene, persone che mi hanno fatto del male. E benissimo, questa era una grazia che lui aveva, no? È quella grazia che chiediamo al Signore, no? Di non considerare nessuno come nemico, di non, come dire, mettere la croce sopra, no? Una persona, che non significa evidentemente che ci dice Gesù che cosa fare con quella persona, ma ci chiama senz'altro ad avere questo atteggiamento del cuore, no? È ovvio che a volte il normale buonsenso, anche magari anche proprio la prudenza, dice: mi tengo lontano da quella persona che mi può fare del male, ci mancherebbe, no? È ovvio che è così. Però nel nostro cuore il Signore ci chiede di avere benevolenza, di avere misericordia, di perdonare, no? E di benedire coloro che maledicono, eh? Questo del percuotere la guancia mi fa ricordare una piccolissimo aneddoto che sentii raccontare quando a Verona appunto arrivò la notizia che volevano in Svizzera cominciare a studiare la vita di Toni Zweifel perché aveva fama di santità tra i suoi amici. E allora, essendo lui vissuto a San Giovanni Lupatoto fino all'università, allora, ricordo, era Don Ferdinando Rancan che l'aveva conosciuto, era stato suo allievo al liceo e poi aveva conosciuto la famiglia quando già lui aveva intrapreso la vocazione all'opera lì a Zurigo, e quindi era andato a Zurigo per studiare, per tornare a lavorare nell'azienda di famiglia a San Giovanni Lupatoto, invece poi si fermò a Zurigo, quindi con evidente così sconcerto dei suoi. Allora Don Ferdinando si diede da fare per conoscere alcuni e parlò con un sacerdote che era il parroco lì o curato, e lui si ricordava un episodio che era questo Vangelo alla lettera del giovane Toni, ma 7 anni così, in oratorio o a scuola, non mi ricordo bene dov'era, che appunto sai, in questi litigi da ragazzini, no? Un compagno gli diede una sberla e lui gli porse l'altra guancia. Impressionante, no? È veramente bene, è molto piccolo, però molto forte, no? Molto bello. E tanto che questo prete se lo ricordava a distanza di parecchi anni, no? E quindi diciamo, E mi ricordo anche qualche altro episodio che viene raccontato proprio quasi, appunto, quasi letterale in questo senso, no? Che sempre colpisce. D'altra parte forse è più facile, visto che grazie a Dio, soprattutto tra noi, non usiamo il linguaggio delle sberle, mi pare, non siamo abituati a un linguaggio che... È un tipo di linguaggio che, grazie a Dio, che non usiamo, perché in effetti poi è, vabbè, sì, non va usato ovviamente in nessun caso. Però il discorso invece, se lo spiritualizziamo un po', può voler dire, ecco, mettersi a disposizione comunque un'altra volta, ecco, di un incontro che magari, ecco, ad ogni delì, come diceva quel punto di cammino, no? Che poi si riferiva, se non ricordo male, anzi penso a Isidoro Zorzano, no? Che diceva che aveva quel superiore che lo trattava male, che era a Malaga, poi dopo lui diceva: finalmente mi trasferisco a Madrid a lavorare lì nell'azienda delle ferrovie dello Stato, e poi si trasferisce anche il superiore e va proprio nel suo stesso ufficio. Quindi è quello di cui diceva appunto quel punto di cammino, che di ringraziare Dio, non mi ricordo la letteralità, se quel superiore che ad ogni delicatezza tua ti risponde con un paio di calci, no? Ci possono essere situazioni normali, quotidiane, no, nella vita in cui accade questo. Allora possiamo vivere letteralmente quella... Ecco, adesso è terminato il tempo della meditazione, vedo che è terminato. Vivere letteralmente quella cosa in modo spirituale, cioè torno a parlare con quella persona anche se l'ultima volta mi ha trattato male o cose di questo tipo. E comunque, come vedete, su un brano del Vangelo come quello della Omelia di oggi, si potrebbe fare probabilmente, che so, anche tutto un intero corso di ritiro spirituale, perché è densissimo e ogni frase di Gesù è un orizzonte stupendo, ma difficile da vivere, per cui chiediamo a Lui e alla Madonna, no, e ai Santi del Cielo la grazia dello Spirito Santo, no, per poter vivere questa santità.